scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un gruppo italiano che sta macinando un successo dietro l'altro. Nascono a Milano dall'incontro della cantautrice Angelica Schiatti con il chitarrista delle Vibrazioni Stefano Verderi. Il debutto come gruppo nel luglio 2013 in apertura al concerto dei Deep Purple all'Ippodromo Capannelle di Roma. Vengono poi chiamati a un'altra importante apertura, quella della cantante blues americana Beth Hart. Nell'estate 2014 vincono il Coca-Cola Summer Festival nella sezione giovani. Vengono scelti come artisti del mese di MTV New Generation. Il loro primo singolo, Riderò, entra nella colonna sonora del film di Natale di Aldo Giovanni e Giacomo, Il ricco, il povero e il maggiordomo. Esce intanto su etichetta Carosello Records il loro primo EP, Il suono analogico cova la sua vendetta, volume 1. 5 brani registrati completamente in analogico, disponibile solo in vinile e in streaming. Nel 2015 si esibiscono sul palco del concerto del 1° maggio a Roma, trionfano nella categoria Best New Generation degli MTV Awards ed escono in vinile e in digitale con Il suono analogico cova la sua vendetta, volume 2. Loro sono i Santa Margaret. Dare il nome a una band non è per niente facile. Per questo. Cioè, non è per niente facile, quindi in un certo senso va bene tutto. Cioè, secondo me è più difficile che dare il nome al figlio, anche perché il figlio sei limitato nei nomi maschili e femminili. Guarda, un po'. Poi lei ti dirà la spiegazione, quella ufficiosa e ufficiale. Ma in realtà deve suonare bene. Cioè, come dare il nome a un cane. Cioè, il cane deve risponderti. Deve risponderti. E il nome di un gruppo deve suonare bene, perché se è già un po' cacofonico, poi voglio dire, insomma, sai, dipende poi dal successo che fa la musica stessa, poi il nome, cioè se tu pensi U2, che cacchio di nome è? No, adesso eppure nessuno lo sceglierebbe più, perché scusa, perché Duran, che ma nome? Ma Duran non è ancora, però U2, cioè se uno venisse adesso, fuori secondo adesso, me U2 non lo sceglierebbe nessuno perché non è googlabile. Ci chiamiamo V4. Tu dici, ma che cacchio di nome? Poi vedi, fa successo la tua musica e dice, i V4, pensa che nome. Sì, è vero. E invece la spiegazione... La spiegazione ce ne sono diverse. Diciamo che noi vorremmo anche poi andare a suonare all'estero, eccetera, e ci disturbava il fatto di un nome storpiato magari all'estero, quindi insomma un nome che si potesse comunque pronunciare in tutte le lingue, con una connotazione molto italiana, perché Santa poi è una cosa, no? Ti fa pensare subito tutto quell'immaginario del sud Italia, e allo stesso tempo internazionale, come c'è Santa Barbara, c'è anche la Santa Annunziata, no? Quindi insomma, certo. Volevamo mischiare, come poi la nostra musica, Italia con il resto del mondo. Testi delle canzoni, c'è un sacco di energia, coraggio, torna il gridare, l'urlare, l'energia nel prendere delle decisioni. Sì, esatto. Esatto, sì, perché fondamentalmente poi questi due EP sono nati in un momento dove poi i testi li scrivo prevalentemente io, sempre sotto poi l'occhio vigile di Stefano, ma in un momento dove io devo prendere una decisione sulla mia vita, no? Quindi quando hai più o meno 22-23 anni devi capire che cosa fare della tua vita, lì devi prendere delle scelte. E io studiavo, lavoravo e comunque poi avevo sempre la mia musica, no? Quindi comunque facevo sempre questo. E però appunto a un certo punto ho detto, ok, adesso devo capire, e avevo dentro questa cosa che andava espressa. Però è un passo importante, perché sai, se tu decidi di fare l'avvocato nella vita tendenzialmente hai le tappe già segnate, se decidi di fare il musicista non si sa bene cosa succede, e quindi insomma c'era dentro questa voglia di dire, di fare, e anche di migliorarmi come persona. Cioè, nel senso, è sempre bello poi non aver paura di prendere le decisioni ma volare, e quindi c'è un po' questo. Troppe volte i sogni restano all'ombra della sera. Voglio urlare i miei sogni. non è più scontato il mondo discografico, per cui non c'è più la maniera giusta di uscire, certo. Quasi non esiste più l'album tra ragazzi che ascoltano le canzoni su Spotify, Deezer, quel che è, in shuffle, ascoltano un brano, poi ne ascoltano un altro. Invece voi avete preso questa scelta, di cui avete dovuto raccontare Marie Monti in tutte le interviste, del supporto analogico, del vinile, sì. Anche dal titolo, il suono analogico cova la sua vendetta. È più una scelta di supporto o una scelta di proposta di fruizione della musica? Entrambe. Esatto. Perché, nel senso, noi abbiamo voluto fortemente registrare questo disco in analogico, quindi su nastro, e quindi poi la naturale conseguenza era stampare dei vinili. Noi per primi, che siamo dei grandi fruitori di musica, non acquistiamo più CD, acquistiamo solo vinili o ascoltiamo tutti i vari servizi di streaming. Quindi questo è un po' sia un discorso timbrico per quello che riguarda proprio il nostro modo di fare musica, che ripeto è semplicemente una scelta timbrica, stilistica, cioè voler registrare su nastro piuttosto che in digitale è proprio una scelta di gusto, se vuoi, non si può dire meglio o è peggio. E poi anche, esatto, è un consiglio piuttosto, anzi è più un'osservazione che noi facciamo di questa realtà discografica e musicale in questo momento in Italia, ma anche nel mondo, del fatto che il vinile sta tornando, cioè il supporto analogico è un qualcosa che sta crescendo piano piano, anzi in realtà molto, però vabbè, le percentuali ovviamente sono di mercato, sono ancora piccole. E quindi in qualche modo anche noi diamo un po' il consiglio dello chef di dire: ascoltate la nostra musica in generale, ascoltate la musica in vinile che ha più gusto. C'è lo slow food, il fast food, c'è lo slow listening, che è quello che proponiamo noi, e il fast listening. Esatto. Anche perché ascoltare un disco in vinile implica che uno si alzi, certo. Vada a metterlo su un piatto, ci metta la puntina, e poi non è che uno si alza per saltare, cioè esatto. Se lo deve ascoltare tutto. Esatto, proprio... Sì, non bisogna skippare, infatti tipo il lato B del primo EP è tutta un'unica traccia da 20 minuti e lì te la devi ascoltare, cioè nel senso sì, anche un perché anche se c'è un fare. Punto che ti piace devi andare lì un po' a caso a prenderlo, quindi esatto. Tanto vale sentirtelo tutto. Esattamente. Sogni non vanno lasciati chiusi nel cassetto, cioè per cui i sogni nel cassetto sono un peccato mortale. Esatto, esatto, è proprio un'espressione. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Che mi dà un fastidio incredibile, perché il sogno, già avere un sogno è tra virgolette una cosa da privilegiati, perché c'è chi non ha sogni, nel senso che proprio magari ha avuto una vita in cui non si è potuto permettere di fare sogni, quindi già avere un sogno è un dono, se poi lo chiudiamo anche nel cassetto è veramente, come dici tu, un peccato mortale. Per cui davvero io vorrei, perché ho conosciuto anche tante persone della mia età o anche più giovani in questi anni che non avevano proprio la spinta di cercare di esaudire i propri sogni, e costi quel che costi, abbandonare anche un po' la vita sicura, tanto comunque non esiste una vita sicura, soprattutto nel periodo storico in cui viviamo, quindi è inutile cercare di rincorrere certe sicurezze, che non... bisogna rincorrere i propri sogni e cercare di realizzarli, perché tanto è l'unica cosa che ci può venire bene poi. Peraltro l'insicurezza, la precarietà, che è anche talvolta una risorsa, mi pare che ci sia un po' nel sottofondo di Vieni a gridare con me, sì. Perché alla fine è un pezzo in cui magari guardate un po' anche il mondo fuori. Assolutamente, lì invece c'è proprio un bisogno di socialità, cioè Vieni a gridare con me è della serie, ok, ognuno ha i propri problemi, però forse se ci uniamo tutti insieme, appunto in una piazza, piuttosto che l'ho pensata proprio da suonare in piazza, quindi socialità, meno social, più socialità, forse la voce grossa effettivamente può essere sentita. A volte bisogna un po' urlare poi per farsi sentire, insomma... Viene a gridare con me quello. C'è anche una canzone d'amore. Sì. Yeah, che bello. Ne abbiamo scritte poche, perché secondo me per scrivere d'amore devi essere molto capace e molto innamorato, ispirato, o devi sentirlo proprio. Le canzoni d'amore scritte perché l'amore, tra virgolette, tira, è una cosa che niente più brutto e più triste, no, di una canzone triste, d'amore fatta apposta, perché d'amore tanto poi dopo attecchisce di più. Eppure ci sono professionisti delle canzoni d'amore che scrivono decine. Esatto, cioè io non riuscirei mai a scrivere canzoni d'amore così, no? E quindi e ce n'è una però sentita. L'amorificio bellissimo. Esatto. Beh, ma molto sentita. Amore o odio per Milano, visto che parlate anche di Milano? Milano direi amore e odio, tutte e due, perché Milano non ha mai bisogno di te, sei tu che hai bisogno di Milano, e quindi già parti male. Già parti svantaggiato. Esatto. Ma secondo me Milano ha anche un po' bisogno di noi, un po' di musica, di musicisti nuovi, perché è un po' che non si sente parlare, secondo me, di Milano da un punto di vista musicale. Beh, devo dire che tu la scena milanese, per usare una, la frequenti da tanto. La scena milanese la frequento da tanto, infatti, cioè, parlo Milano negli anni 90 era musicalmente più vivace, e infatti sono uscite tanti bei progetti da After Hours, Blue Vertigo, Vibrazioni, Ritmo Tribale, che conosci abbastanza. Le Vibrazioni che conosco abbastanza, che appartengono a una decade successiva, però... Sì, esatto, infatti dico, no, nel senso, non per fare del regionalismo, certo, della roba autoctona. No, è vero, la scena milanese adesso è da un po' sembra che tutti i gruppi musicisti fighi arrivino da Salento. Sì, ormai sono Puglia. Puglia sì. Anche la scena torinese, però la scena milanese... Invece non... Manca un po' di orgoglio musicale milanese da un po' di tempo a questa parte. E quindi secondo me Milano ha bisogno di noi. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci in Scena e con i Santa Margaret. Ancora un saluto da Marta Cagnola.